Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Haiti, tensioni tra Francia e Stati Uniti sulla distribuzione degli aiuti, 70.000 le vittime accertate. Assalto al centro di Kabul, sparatorie vicino ai palazzi del potere e agli hotel degli stranieri. Processo Mediaset, Berlusconi chiede tempo per decidere sul rito abbreviato, ma i giudici rifiutano. Arrestati a Milano due membri delle nuove BR, uno dei due è il figlio di un ex brigatista. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Tra poco andremo alla cronaca di giornata, ma prima di tutto, come avete in parte già sentito, c'è il nuovo palinsesto di Radio 24. In studio con noi il nostro direttore Gianfranco Fabi. Direttore. Grazie Simone, oggi è una giornata importante, alcuni cambiamenti in un palinsesto che peraltro conferma i suoi punti di forza, i suoi appunti tradizionali. Gli appuntamenti nuovi sono Italia in controluce, un programma di cronaca, lo sentirete tra poco alle 13.30, già una prima edizione è andata in onda alle 6.30 del mattino e così sarà per tutti i giorni, quindi 6.30 e 13.30 Italia in controluce, un programma di approfondimento sulla cronaca quotidiana, la cronaca dei territori, la cronaca di questa Italia che può essere importante. Un po' per tutti i nostri ascoltatori. E subito dopo alle 13.45 America 24, un nuovo programma rapido e essenziale, ma costruito anche con musiche e suoni di Mario Platero, che ci racconta come l'America si sveglia, quali sono gli appuntamenti americani della giornata. Nel pomeriggio tre nuovi appuntamenti tra le 15 e le 17. Alle 15 debutta Destini Incrociati, un racconto su fatti storici con protagonisti che hanno visto la loro vita un po' intrecciata e che con alcuni incontri, esperienze, avvenimenti che hanno cambiato il loro destino. Alle 15, quindi Destini Incrociati. Alle 16.30, scusate, alle 16, Matteo Caccia con Vendo Tutto, un programma in diretta, l'esperienza di una persona che vuole cambiare vita e vende un po' tutti i suoi ricordi, gli oggetti, ma con questi oggetti vende anche un po' la sua esperienza e vuole condividere la sua esperienza con gli ascoltatori che potranno chiamare in diretta per acquistare questi oggetti. E poi un breve appuntamento alle 10 minuti alle 17 con Zot, Fulminati in azienda, un modo un po' allegro, un po' vivace per prendere un po' in giro la realtà aziendale, la realtà in cui molti ascoltatori si trovano. E questo Zot, che è un libro di successo dell'edizione del Sole 24 Ore, gli autori di questo libro entreranno anche in radio. Queste sono le novità, ma poi tutti gli altri programmi, tutti gli altri punti di forza di Radio 24 sono confermati, altre novità nel weekend, ma avremo modo di parlarne. E grazie direttore. Dunque noi passiamo adesso invece alla cronaca di giornata, iniziando dagli esteri, iniziando da Haiti, dove la situazione continua naturalmente ad essere difficilissima. Ci colleghiamo in diretta con Maria Luisa Pezzali per fare un punto della situazione. Maria Luisa. Sì, buongiorno Simone, a te gli ascoltatori. A quasi una settimana dal terremoto, il governo di Haiti ha proclamato lo stato di emergenza fino alla fine del mese e un mese di lutto nazionale. Sono circa 70.000 i cadaveri ai quali è stata data sepoltura nelle fosse comuni. Oggi è atteso a Port-au-Prince l'ex presidente americano Bill Clinton nella sua veste di inviato speciale dell'ONU per Haiti. L'Unione Europea ha garantito aiuti immediati per 20 milioni di euro su un totale di oltre 100 previsti. Intanto è sceso a 7 il numero degli italiani che mancano ancora all'appello. Il numero non comprende i 3 connazionali di cui si hanno fondate e concrete ragioni di forte preoccupazione, così ha detto la Farnesina. Uno di questi, Antonio Sperduto, lavorava al Caribbean Market, dove nelle ultime 24 ore le squadre di soccorso hanno estratto vive dalle macerie 5 persone. Delle ultime 2 si è avuta notizia proprio questa mattina. A preoccupare maggiormente sono la sicurezza, dopo i saccheggi e i linciaggi di ieri, di cui leggiamo oggi su tutti i principali quotidiani, siti internet, e la distribuzione degli aiuti non solo nella capitale Port-au-Prince, ma anche e soprattutto nelle province più lontane dell'isola, che sono praticamente tagliate fuori dalla rete umanitaria, questo almeno al momento. Gli Stati Uniti hanno incrementato la presenza militare sul campo, schierano ormai oltre 13.000 soldati, ma contro il ruolo americano di coordinamento degli aiuti, ne accennavamo anche nel precedente collegamento, stanno crescendo i malumori degli altri paesi che portano aiuti. La Francia in particolare ha chiesto che questo ruolo sia precisato autorizzato dall'ONU. Crea problemi soprattutto la gestione logistica dello scalo aereo della capitale, ne ha fatto le spese anche Medici Senza Frontiere, come ha raccontato il responsabile comunicazione Sergio Cecchini al nostro Paolo Piacenza. Noi avevamo il permesso ad atterrare rilasciato dall'ONU e dal Dipartimento della Difesa statunitense, ma poi all'ultimo momento questo aereo che trasportava questo ospedale è stato dirottato su Santo Domingo. Il secondo cargo che era in volo è riuscito ad atterrare, però questo qui ovviamente rappresenta un problema enorme, nel senso che questa struttura ospedaliera gonfiabile che dovevamo portare lì è estremamente urgente. Avete l'impressione che ci sia un monopolio americano un po' burocratico nella gestione degli aiuti? Ma quello che è certo è che due giorni fa, quando c'è stata la visita di Hillary Clinton, l'aeroporto è stato praticamente paralizzato per tutta la giornata, e questo qui ovviamente ha avuto un impatto diretto sulla possibilità di far arrivare gli aiuti nelle ore cruciali dall'inizio dell'emergenza. E proprio in merito ai problemi logistici all'aeroporto della capitale ha parlato l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. È essenziale risolvere questi problemi, ha detto la Ashton. È tutto, linea allo studio. E grazie Maria Luisa Pezzali per questi aggiornamenti. Noi restiamo all'estero e andiamo a Kabul, dove c'è stato un attacco multiplo dei talebani in centro nel giorno del giuramento del governo afghano. È ancora provvisorio il bilancio ufficiale delle vittime e dei feriti dell'offensiva. 10 morti e 32 feriti per il momento, tra le vittime 7 sono insorti e 3 civili. Il presidente Hamid Karzai ha voluto rassicurare la popolazione, in un comunicato ha fatto sapere che a Kabul la situazione è nuovamente sotto controllo e che l'ordine è stato ristabilito. L'inviato speciale americano per Pakistan e Afghanistan, Richard Holbrook, parla degli attacchi come frutto della disperazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Che cosa ne pensi delle parole di Holbrooke? Questo attacco di questa mattina dei talebani al centro di Kabul è frutto della disperazione, davvero? Ma dunque, questi attacchi di oggi ci dicono almeno due o tre cose. La prima è che questi attacchi sono stati coordinati attraverso l'utilizzazione dei kamikaze, ma anche di gruppi di fuoco che si sono poi aggiunti agli attentati suicidi. La seconda è che a Kabul evidentemente i talebani hanno delle quinte colonne, cioè riescono comunque a far penetrare delle autobombe, comunque riescono a organizzare degli attacchi di guerriglia e di terrorismo. La terza è che le forze di sicurezza afghane mi sembrano palesemente inadeguate a garantire la sicurezza in città, perché gli attacchi, l'ultimo è stato in ottobre, ci sono stati 11 morti tra i dipendenti delle Nazioni Unite, ma poche settimane fa un attacco all'ambasciata indiana ha provocato altre 17 vittime. Quindi c'è questa grande difficoltà da parte delle forze di sicurezza afghane. Credo che le parole di Holbrooke siano leggermente ottimiste da un certo punto di vista, perché proprio la situazione ci dice che in realtà siamo in una situazione molto, molto diversa probabilmente. È ancora più grave se poi la guardiamo dal punto di vista politico, perché il governo Karzai è un governo fragile, circa la metà dei ministri non sono passati alla votazione del Parlamento per ben due volte, e lo stesso Parlamento, in una mossa quasi paradossale, ha deciso di chiudere per un mese per ferie invernali, e questo nel momento in cui si avvicina la data del 28 di gennaio, quando ci sarà la conferenza internazionale di Londra proprio sull'Afghanistan. E grazie Alberto Negri per questa analisi. Abbiamo parlato di terrorismo internazionale, parliamo di terrorismo di casa nostra, perché ci sono stati due arresti importanti oggi. Ci colleghiamo in diretta con Roma con Andrea Viali. Andrea. Sì Simone, se mi passi il termine possiamo dire che può in qualche modo essere considerato una sorta di figlio d'arte uno dei due presunti appartenenti alle nuove Brigate Rosse che sono stati arrestati questa mattina a Milano dalla Digos di Roma in collaborazione con quella milanese. Manolo Morlacchi, 39 anni, che è stato fermato assieme al 34enne Costantino Virgilio, è infatti il figlio di Pierino Morlacchi, che è una figura storica del terrorismo milanese e uno dei fondatori delle vecchie Brigate Rosse. I due sono stati arrestati nelle loro abitazioni. I due sono stati appunto arrestati all'alba nelle loro abitazioni, ma abbiamo perso il collegamento con Andrea Viali. E continuiamo a parlare di terrorismo e parliamo dell'uomo che invece attentò alla vita del Papa, Liaq Chah, che è libero da oggi. Ali Akça sta assaporando le sue prime ore da uomo libero nei corridoi dell'ospedale militare di Ankara, dove si trova per controlli di routine. L'ex terrorista islamico, attentatore di Papa Giovanni Paolo II nel 1981 e killer del giornalista turco Abdi Pekci nel 1979, è stato rilasciato questa mattina dal carcere di Sinjar dopo 29 anni di reclusione, 19 dei quali trascorsi in Italia. Akça non ha parlato con nessuno. La liberazione è avvenuta nella prima mattinata, tra imponenti misure di sicurezza per limitare la presenza dei curiosi. Adesso nel paese c'è molta attesa per le decisioni che l'ex lupo grigio prenderà sul suo futuro. La stampa locale ha riportato alcune indiscrezioni. Akça vorrebbe lasciare la Turchia e prendere moglie. Secondo alcuni potrebbe annunciare a breve la sua conversione al cattolicesimo. E se molti si chiedono quali segreti nasconda ancora, alcuni quotidiani hanno già scritto che la sua sicurezza è in pericolo e che potrebbe venire presto ucciso. Marta Ottaviani, GR24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E ieri c'è stata la visita del Papa di Benedetto XVI alla sinagoga di Roma, fatta di tanti gesti da ricordare. Lo facciamo con Katia Caramelli. Poche centinaia di metri separano la città del Vaticano dalla sinagoga di Roma. Un percorso che nell'ultimo anno è però sembrato dilatarsi. La distanza è diventata enorme, segnata dalle tante incomprensioni e dagli incidenti diplomatici. Ieri, quel percorso, se non di azzerarlo, per questo ci vorrà tempo e tante altre azioni concrete, si è cercato però di riaccorciarlo. Lo ha fatto il Papa, servendosi delle parole ma soprattutto di tanti gesti. Il primo, la sosta davanti alla lapide che commemora i 1021 deportati del ghetto di Roma nel 1943. Di loro solo 17 fecero ritorno. Terribile, ha mormorato Ratzinger, visibilmente commosso, lo sguardo basso, più scosso che ad Auschwitz, racconta chi c'era. L'omaggio a Stefano Taché, il bimbo di 2 anni ucciso in un attentato palestinese nell'82, l'incontro con i genitori, la stretta di mano con i sopravvissuti a quell'attacco. Poi l'ingresso in sinagoga. È teso Ratzinger quando entra, avverte il peso dell'evento, segnato da tante polemiche. Ad ascoltarlo anche i sopravvissuti ai campi di sterminio. A loro vanno i suoi applausi più lunghi e commossi. Il Papa si alza 2 volte per salutarli levando le mani congiunte. Un gesto che può molto più delle tante parole, con le quali comunque ricorda il dramma della Shoah, le colpe della Chiesa, i tanti silenzi. Non manca però l'omaggio ai tanti cattolici che reagirono con coraggio per salvare gli ebrei. Li ricorda il Papa, lo aveva fatto il presidente della comunità ebraica Pacifici. Il padre si salvò grazie alle suore italiane di Santa Marta. Significativa la loro presenza nel Tempio. Al termine, il colloquio privato tra Ratzinger e Di Segni. Il rabbino capo di Roma chiede l'accesso alle carte su Pio XII e di rendere disponibili i documenti conservati da monasteri ed istituti cattolici. Il Papa si mostra favorevole. Distanze azzerate? No. Ma la strada che separa Città del Vaticano dalla sinagoga da ieri è tornata ad essere più breve. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E torniamo a collegarci con Roma con Andrea Viali per fare il punto sugli arresti dei nuovi brigatisti di questa mattina. Andrea, eravamo rimasti alle circostanze dell'arresto, prego. Sì, Simone, ci riproviamo. Stavamo dicendo appunto che i due, ripetiamo, Manolo Morlacchi e Costantino Virgilio, sono stati arrestati nelle loro case a Milano, case che già a giugno erano state perquisite sempre nel corso di indagini antiterrorismo. Ecco, i due sono dipendenti di un'agenzia che gestisce archivi. Il loro arresto è stato richiesto dal pool antiterrorismo della Procura di Roma. L'accusa è quella di banda armata. A uno dei due, hanno fatto sapere gli investigatori, è stato anche sequestrato una sorta di manuale del terrorista, nel quale si spiega fra le varie cose anche in che modo criptare messaggi e documenti informatici trasmessi via internet in modo da non essere rintracciati dalle forze dell'ordine. Simone, a te la linea. E grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Parliamo di cinema adesso, perché questa notte c'è stata la cerimonia dei Golden Globe, considerati l'anticamera degli Oscar. Il trionfatore James Cameron con Avatar, miglior film drammatico e miglior regia. Bari ha sconfitto dal nastro bianco di Michael Haneke, ma i Globes premiano anche la miglior TV. Ecco cosa hanno deciso. Vincono Mad Men e Glee, la conferma dei pubblicitari anni 60, il trionfo della new entry musicale. Ecco le due migliori serie dell'anno secondo i Golden Globe Awards. Un'ottima scelta per l'esperto di serie TV e autore del sito mob.it, Mattia Nicoletti. Mad Men è veramente un capolavoro assoluto e sono contento contento che per il terzo anno consecutivo si sia confermato. Per Glee è stato proprio l'innovazione di quest'anno, una serie musical, forse proprio quella grande forza che le serie televisive oggi riescono ad esprimere, quindi grande creatività anche in momenti di crisi. Tra gli attori hanno vinto star come Toni Collette, Alec Baldwin, Chloe Sevigny, Drew Barrymore e Kevin Bacon. I grandi attori scelgono le serie televisive perché sono oggi forse basati sulle idee e basate sulla sceneggiatura. E gli attori TV entrano forse ancora di più nel cuore del pubblico. Come spesso dico io, sono diventati nostri amici, cioè la serialità ti porta ad un'abitudine che è anche una bella abitudine se la qualità della serie è elevata, e quindi noi li conosciamo veramente. Ed è una delle cose più divertenti, che quando tu li incontri di persona, siccome loro continuano a girare le serie, sono esattamente come li immaginiamo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato del terremoto ad Haiti, dell'assalto al centro di Kabul e degli arresti di due membri delle nuove Brigate Rosse. Adesso ci occupiamo del processo Mediaset. Perché ci occupiamo del processo Mediaset? Perché oggi c'è stata una richiesta da parte della difesa di Silvio Berlusconi che non è stata accettata dai giudici. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Calandra. Raffaella. Avevano chiesto la riapertura dei termini per un possibile ricorso al rito abbreviato, ma i giudici hanno detto no e quindi si procede. Nessuna interruzione per il processo sui diritti TV Mediaset, in cui è imputato a Milano tra gli altri anche il premier Silvio Berlusconi. Non ora, ma due anni fa, secondo i giudici della prima sezione penale, la difesa avrebbe dovuto presentare questa richiesta di valutare la strada del rito abbreviato, dunque tardiva e per questo bocciata dalla Corte. Al novembre 2007 risale infatti la cosiddetta contestazione suppletiva da parte del PM Fabio De Pasquale, che cioè mosse contro l'imputato una nuova accusa di frode fiscale per oltre 30 milioni di euro riguardante il 2003. Quest'ultima strada che gli avvocati di Berlusconi hanno tentato oggi invano di percorrere poggia sulla sentenza della Consulta di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni, quella che, partita da un caso di Pinerolo, ha stabilito in parte illegittimi alcuni articoli che impedivano il ricorso al rito abbreviato in caso di nuove accuse. Ma la pronuncia della Corte Costituzionale, scrivono ora i giudici di Milano presieduti da Edoardo Davossa, è dichiarativa di un diritto esistente, non una generale rimessione in termini. Oggi qui al terzo piano del Palazzo di Giustizia ci sarebbe dovuto essere anche lo stesso Berlusconi, che nell'ultima udienza aveva indicato infatti questa come la prima data utile, ma come vi avevamo anticipato già venerdì, il premier non è venuto. Per accadimenti sopravvenuti, ha scritto in una lettera ai giudici, in cui però dà il nulla osta a proseguire anche in sua assenza. Il premier richiama i ben noti fatti che hanno cambiato la sua agenda e anticipa che aveva intenzione di rendere dichiarazioni spontanee, ma in questa fase, gli hanno spiegato i suoi avvocati, non è possibile. Il processo dunque va avanti e ci saranno chiamati presto i testimoni, a cominciare da Grama. Simone. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Di questo discuterà la politica, che nel frattempo però discute di elezioni regionali, di candidati per le elezioni regionali. Ci colleghiamo in diretta con Montecitorio. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, di nuovo scontro tra UDC e PDL per le regionali. Questa mattina interviene Pier Ferdinando Casini, che ribadisce il problema è l'arroganza della Lega, ma sentiamo il segretario UDC. Credo che tutti gli italiani abbiano capito chiaramente che il problema non è tra noi e il centrodestra, il problema è Bossi e la Lega, che pretendono di dettare le alleanze non solo al nord, dove noi non siamo disponibili a fare alleanze con loro e loro non sono disponibili a farle con noi, ma anche al sud del paese. Per cui è un problema in particolare che riguarda la Lega e PDL. Una risposta al leader della Lega Umberto Bossi, che afferma perentorio: per Casini non c'è spazio sopra il Po, se vuole fare accordi con la Lega vada da solo e vedere quanti voti piglia. Casini è uno che fa molte chiacchiere e pochi fatti, dice Bossi, ma soprattutto pochi numeri. Critiche all'UDC anche dal PDL per Daniele Capezzone: gli elettori non premeranno eccessi di furbizia, di ambiguità o tatticismo. Nel PDL c'è stata massima chiarezza e linearità, ma non si può dire altrettanto dell'UDC. Per Capezzone, Casini si traveste da Arlecchino e questo non piace agli italiani. Diverso il parere del ministro Gianfranco Rotondi, che boccia le crociate contro l'UDC ma auspica un confronto dopo il voto per le regionali. Per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. E grazie Elisabetta Fiorito. Al centro dell'attenzione resta il tema della riforma fiscale, riproposto ieri dal ministro dell'economia Giulio Tremonti nell'intervista al Sole 24 Ore. Di questo tema, come di altri, ha parlato questa mattina la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Da Milano ci colleghiamo in diretta con Anna Marino, che ha seguito l'intervento della Marcegaglia. Anna. Sì Simone, faccio una premessa appunto per la giornata, si è conclusa pochi minuti fa appunto la giornata del premio della regione ai giovani talenti lombardi dal titolo Diamo merito al talento, tutto esaurito, prenotati 14.200 posti, eravamo al Mediolanum Forum di Assago ed è stata una manifestazione per ringraziare gli studenti delle scuole lombarde statali e paritarie che hanno ottenuto ottimi risultati lo scorso anno. Roberto Formigoni ha detto che sono 22.603 quegli studenti che hanno concluso le medie inferiori con una media tra il 9 e il 10 o hanno ottenuto una media di almeno dell'8 nei primi 4 anni delle medie superiori, che hanno avuto 100 e lode all'esame di maturità, e quelli che ne hanno necessità ricevono anche la dote merito, un contributo variabile tra i 300 e i 1000 euro. Ma veniamo appunto all'attualità, premiazione, intrattenimenti e testimonianze. Tra gli interventi quello del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che a margine ha toccato proprio il tema del fisco e delle riforme e ha detto: stiamo ragionando su una proposta a breve, un progetto complessivo nelle prossime settimane che riguarderà anche il fisco, tema fondamentale insieme alla pubblica amministrazione, alla scuola e all'università. La politica dei singoli provvedimenti, ha detto Emma Marcegaglia, non risolve il problema. E per quanto riguarda i talenti, Emma Marcegaglia ha detto che la politica per prima, ma anche Confindustria, devono lavorare seriamente, perché quando questi ragazzi arriveranno al mondo del lavoro tra 3 anni si trovino un paese diverso che valorizzi il merito, eviti i ragazzi bravissimi vanno via e che eviti appunto il meccanismo delle raccomandazioni. Ed bisogna partire dalla riforma della scuola, per cui va fatto molto di più, e anche nel mercato del lavoro bisogna fare in modo che non ci sia una separazione netta tra chi ha un posto di lavoro fisso e chi è destinato ad essere precario. Per ora è tutto. E grazie Anna Marino anche a te per questi aggiornamenti. Siamo in chiusura, passiamo allo sport. A meno di una settimana dal derby di Milano continua il botta e risposta tra le due società sui cambi di calendari. Milan favorito, speriamo di finire in 11, attaccato questa mattina l'interista Oriali, ma il presidente Moratti ha gettato acqua sul fuoco, mentre in casa rossonera ci si gode soprattutto il momento magico della squadra e di Ronaldinho. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì Simone, in casa Milan tutto fila a gonfie vele, talmente a meraviglia che sembra quasi una fiction. Una squadra di vecchie glorie in pochi mesi si è trasformata in un Luna Park che viaggia alla media di 4 reti per partita. È rinato Ronaldinho, che segna e si diverte come al carnevale. Sono rifioriti Boriello, Pirlo, Gattuso, per non parlare della difesa che innesta il suo centro di gravità. Alla vigilia del derby, dopo 4-0 col Siena, anche l'Inter comincia a preoccuparsi. Quel più 6 in classifica, con una partita in più rispetto ai rossoneri, non è così rassicurante. Quello che colpisce poi in un campionato così a fior di pelle come il nostro è l'allegria che il Milan emana. Leonardo, col suo calcio da amici miei, ha compiuto una magia ancora da studiare, una quadratura che sfugge ai vecchi tatticismi. Se andrà fino in fondo non si sa. Di sicuro questo Milan meravigliao riconcilia con un campionato che finora, Inter a parte, aveva prodotto solo musi lunghi e torve contestazione. Beh, decisamente Dario, però c'è un'altra squadra in estasi in questo lunedì mattina della Roma. Massimo Di Scienza, buongiorno. Sì, buongiorno. La mano che ruota dietro l'orecchio è già un cult in curva sud. E siccome il tifo romano ci mette poco ad aggiornare i suoi eroi, Luca Toni al 60° di Roma-Genoa di ieri era già nell'Olimpo, grazie alla doppietta con cui ha liquidato i grifoni. E questa mattina l'etere romano festeggiava le sue gesta al ritmo delle varie cronache tifose. Passa al centro, da! Luca! Luca! Luca! Luca! Toni sembra non averlo mai abbandonato il campionato italiano, si è fatto trovare pronto ed allenato, ha lasciato subito il segno. Dall'Olimpico 2 cartoline per Van Gaal, il tecnico che lo ha fatto fuori dal Bayern, e 2 per Lippi, che non l'ha mai perso di vista e potrebbe convocarlo per il Sudafrica. A Roma se lo coccolano la Sensi e Ranieri, che già immaginano una coppia mondiale con Totti. Ironia del calendario, sabato questa Roma, risorta dalla zona B al terzo posto, renderà visita proprio alla Juve per staccarla nella corsa Champions. Quasi uno spareggio nella serata che Ranieri aspetta da un anno per farsi rimpiangere da chi lo licenziò forse troppo in fretta meno di 12 mesi fa. È tutto. Grazie anche a te Massimo Di Scienza, è tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Fabio Cantadori. Il GR torna alle 14, vi lascio al nuovo programma Italia in controluce, poi America 24. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.